Una mela al giorno. È stata scoperta l'area cerebrale che regola il nostro ottimismo. Evviva, questa è una buona notizia a voler essere ottimisti, ma lo chiediamo subito al professor Piero Barbanti, che è primario neurologo presso l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico San Raffaele di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Allora, che buone nuove ci porta? Direi delle ottime nuove. Ma qui sono delle buone notizie, perché viene fuori che in realtà l'ottimismo dipende in parte dal capacità di avere dei buoni ricordi. L'ottimismo è pensare positivo, immaginare degli eventi favorevoli per il futuro, e quello che è stato dimostrato con delle immagini funzionali del cervello è che quando noi pensiamo in maniera ottimistica si accende sì l'area delle emozioni, che è l'amigdala, ma si accende un'area della memoria autobiografica, che è la corteccia cingolata. E questo cosa vuol dire? Che quando pensiamo in maniera ottimistica, in realtà il cervello incomincia a scartabellare tra i nostri eventi positivi, li proietta nel futuro e dice: ma questo l'ho già fatto, quindi sarò in grado di farlo. Il tutto ovviamente in maniera inconsapevole. C'è una cosa però: per fare questo, per pensare in maniera ottimistica, occorre avere degli eventi positivi del passato da proiettare nel futuro. E qui sta il bello: gli ascoltatori diranno, ma se uno non ce l'ha, e qua si può discutere, perché abbassare il tono delle pretese, il carpe diem d'Orazio, accontentarsi di poco, porsi degli obiettivi realistici, consente a noi di avere nel nostro bagaglio un curriculum di eventi favorevoli cui pescare per poi proiettare nel futuro, nel momento in cui dovremo pensare ottimisticamente ai nostri progetti. Quindi il trucco è abbassare un pochino le pretese per costruire questo bagaglio di eventi positivi in cui andare a ripescare ogni tanto, e quindi riuscire a vedere la vita un pochino più rosea. Ma professor Barbanti, anche l'ambiente ci influenza. È verissimo, ambienti sfavorevoli non sempre rendono possibile la archiviazione di ricordi positivi. Però pensiamo al periodo forse più roseo e paradossale vissuto da noi italiani: è stato il periodo del dopoguerra, quello che ha dato l'innesto poi al miracolo economico, al miracolo italiano. E in realtà eravamo un paese emergente all'epoca, non diversamente da quanto sono adesso Cina e India, con alle spalle un bagaglio, se vogliamo, di eventi oggettivi negativi, ma in quel momento pensavamo a cose essenziali: la sussistenza, la sopravvivenza. Però abbiamo abbassato il livello delle nostre richieste e quindi ridotto il numero di frustrazioni, e giorno dopo giorno archiviato situazioni positive. Oggi l'ho passata, domani sarà un altro giorno positivo come oggi. Questo ci ha reso un popolo ottimista. Quindi certamente un ambiente particolarmente disagiato può infastidire, ma non pensiamo che vivere immersi negli agi sia la condizione necessaria per essere ottimisti. Direi tutt'altro. Professore, poi c'è un fatto, tutti lo sappiamo e lo sperimentiamo, e c'è anche un vecchio adagio: cuor contento, il cielo aiuta. Insomma, essere ottimisti fa bene anche alla salute. È vero, il grande mediatore di tutto questo sembra essere proprio l'immunità, i processi che noi chiamiamo neuroormonali e l'infiammazione. È dimostrato scientificamente che l'ottimista si ammala meno di depressione. Si badi, la depressione è una malattia, non è la tristezza che è uno stato d'animo. Ha una minore mortalità cardiovascolare e addirittura patologie pesanti come il cancro della mammella e il cancro metastatico. È dimostrato avere nel soggetto ottimista un decorso più blando. L'ottimista ha uno stile di vita particolare: fuma meno, ha un'abitudine di vita più salutari, per esempio l'uso di dieta integrale, un apporto alcolico più contenuto e un'adesione alla dieta mediterranea più ampia di quanto non succeda al soggetto non ottimista. Si potrebbe dire magari che invece una dieta ipercalorica sia più consolatoria per il soggetto pessimista. In questo senso l'ottimista abbia meno bisogno di rifugiarsi nei cibi ipercalorici e quindi problematici per la salute. Insomma, l'ottimista è un personaggio vincente, anche perché sa affrontare col giusto passo e il giusto piglio anche i momenti di crisi. È verissimo. Io amo molto lo sci e ricorro spesso a paragoni con gli sport invernali. L'ottimista è un perfetto discesista libero, non si mette mai in opposizione all'evento, assorbe le asperità, tanto sa poter contare sulle sue energie e di indirizzare poi gli sci, cioè ovviamente il suo obiettivo, dove meglio decide. D'altra parte c'è un vecchio detto coniato da un celebre personaggio politico italiano: il potere logora chi non ce l'ha. L'ottimista è anche molto meno logorato rispetto a un pessimista, il quale, proprio per la serie di frustrazioni che tende a raccogliere, si mette più spesso di traverso alla realtà, ottenendo ulteriori frustrazioni, minori gratificazioni sociali, anche minori gratificazioni sentimentali ed economiche. Quindi l'invito di oggi è quello di essere positivi. Grazie per essere stato con noi, professore. Io le auguro un'ottima giornata. Grazie a lei, arrivederci.